saremo ospiti dell'Università di Bologna nella Facoltà di Economia, aula 22 in Piazza Scaravilli alle 18, e avremo l'incontro con Majed Abu Salama, che è un attivista palestinese di Gaza, del campo profughi di Jabalia, che incontrerà gli studenti dell'università e attivisti o pubblico che sia interessato a questa cosa. Majed, insieme ad altri due attivisti israeliani, Ronny Barkan e Stavit Sinai, è sotto processo in Germania per avere nel giugno del 2017 interrotto l'intervento di una parlamentare israeliana che era ospite all'università di Humboldt, che è in Berlino, in Germania, per aver interrotta in maniera non violenta, ma comunque poi lei in realtà ha continuato il suo intervento, e loro sono stati accusati di violenza privata, aggressione e invasione di luogo pubblico, interruzione di pubblico servizio. Il processo è in corso, hanno avuto una prima udienza in cui tra l'altro il giudice sembrava che li volesse scagionare, poi su pressioni del governo israeliano hanno avuto una seconda denuncia e adesso sono alle prese con questa. Quindi sono in pieno processo in questa fase, stanno organizzando diversi viaggi tour in Europa, i tre attivisti, per informare anche il grande pubblico su questa repressione che sta veramente montando contro il movimento di boicottaggio e disinvestimento e sanzioni a Israele, di cui loro sono rappresentanti, non solo in Germania ma un po' in tutta Europa. Quando ne avevamo parlato già qualche mese fa, prima che il processo iniziasse, anche con Ronny Barkan, lui sottolineava anche l'importanza, diciamo, di questo processo da un punto di vista storico, al di là delle accuse, proprio per la possibilità di sollevare questo tema in un contesto come quello di Berlino. Sì, è chiaro che la Germania ha un senso di colpa eterno e un problema irrisolto di non avere elaborato quello che hanno commesso 70-80 anni fa nei confronti del popolo ebraico, e la vergogna non è stata cancellata, però viene praticamente rivoltata e strumentalizzata questa cosa per combattere in realtà il legittimo movimento di resistenza palestinese e di chi lo sostiene. Sta montando una campagna internazionale a guida di ambienti sionisti che fa passare la definizione di antisemitismo equivalente a quella di antisionismo, il che è gravissimo dal nostro punto di vista, perché si mescolano cose che non c'entrano niente, assolutamente una con l'altra. Tutti siamo contro l'antisemitismo, soprattutto il BDS nelle prime lettere delle proprie dichiarazioni lo dichiara sempre apertamente, contro ogni forma di razzismo, contro l'omofobia, contro l'antisemitismo e contro l'islamofobia, per cui è assolutamente strumentale, e però sta avanzando questa ondata internazionale che sta così cercando di far introdurre in varie legislazioni europee e internazionali, molto anche in America, la definizione proposta dalla International Holocaust Remembrance Alliance, cioè l'alleanza di ricordo dell'Olocausto, che equipara appunto questi due termini che invece sono per noi assolutamente antitetici. E purtroppo ci stanno cascando in tanti, più o meno coscientemente, anche forse anche alcuni partiti politici in buona fede. In Germania il Parlamento la settimana scorsa ha approvato appunto una mozione firmata da diversi rappresentanti dei vari gruppi politici, compresi purtroppo anche socialdemocratici e verdi, in cui appunto si è equiparato il sostegno al BDS come forma di antisemitismo. Non è una legge, non è un intervento legislativo, però è comunque grave che passi una raccomandazione di questo tipo all'interno di un Parlamento europeo, che diciamo è quello che poi comanda anche a livello di Unione Europea, insomma. Certo, ti chiederei anche per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, visto che il termine antisemitismo è un termine più che noto, diciamo, ma invece se puoi ridarci una definizione di antisionismo. Ma certo. Allora, il sionismo come movimento nazionalista ebraico che si è, diciamo, affermato negli ultimi 100 anni, dopo un lungo periodo di gestazione, che però aveva già visto anche le azioni dirette di gruppi nazionalisti ebraici che emigravano in Palestina anche negli anni 20 e 30. Poi, con l'avvento dello Stato di Israele, è diventato un tutt'uno, cioè il progetto della grande Israele, che sta sempre poi alla base questo nazionalismo più o meno mascherato da democrazia, che però è l'ultimo dei colonialismi europei che erano invece in auge un secolo fa. Il sionismo, praticamente, lo dice la parola stessa, prevedeva e infatti ha realizzato il ritorno a Eretz Israel, a Sion, per il popolo ebraico. La cosa che purtroppo è accaduta è che questo è avvenuto a scapito di un altro popolo che era già residente in quel territorio, che i sionisti avevano poi, dopo una serie di ipotesi diverse, avevano scelto anche sulla base della storia e della religione, per cui unirono due nazionalismi, uno di tipo religioso e uno di tipo più laico, che si sono fusi in questo che vediamo adesso, che è portato all'apice, diciamo all'apice anche verso il basso, come un momento veramente terribile della storia, da questo che è il governo più a destra che ci sia mai stato in Israele, anche se hanno fatto tutti a gara per realizzare questa idea di rendere questa terra come un monopolio di un solo popolo a scapito delle altre religioni e degli altri popoli residenti in quell'area. Tornando invece un po' a quello che è la percezione anche del movimento BDS, un po' lo stato delle cose del dibattito pubblico, abbiamo parlato un po' di qual è la situazione a Berlino e del perché sia così importante questo processo che vede coinvolto anche Majed Abu Salama, che sarà presente appunto all'incontro. Ti chiederei, come anche tu, membro appunto del coordinamento della campagna BDS a Bologna in Italia, e visto che la storia italiana alla fine non è così distante per certi versi da quella tedesca, qual è invece lo stato un po' delle cose in Italia secondo te? Lo stato in Italia è purtroppo molto simile a quello che è anche in Germania, ma anche in altri paesi, soprattutto per quello che è un po' la nostra specificità attuale di questo sovranismo, che io definisco anche un po' straccione rispetto ad altri, però cui Israele probabilmente è il modello ideale, perché chi è più sovranista di uno Stato che ha rigettato e disconosce oltre 100 risoluzioni dell'ONU, come più di Israele? Quindi l'Italia è, diciamo, l'alleato speciale all'interno dell'Unione Europea, è quello che ha più rapporti anche ideologici. Israele si rifà anche in maniera assolutamente strumentale al nostro risorgimento per cercare anche delle radici nobili per il proprio nazionalismo, per cui non è un caso che i governi europei più di destra sono quelli che poi alla fine appoggiano di più Israele, e che hanno dei rapporti non solamente ideologici ma anche commerciali molto molto intensi. L'Italia è al quarto posto, ad esempio, per la fornitura e il commercio di armi e sistemi d'arme di spionaggio con Israele, quindi poi alla fine sotto sotto c'è sempre l'economia, ci sono sempre dei rapporti di un certo tipo. Il prossimo business è quello del gas, anche qui nessuno ne parla, ma il vero grosso motivo di alleanza strategica con questo Stato è che adesso fornirà anche gas alternativo a quello che deriva già dalla Russia, per anche avere uno strumento in più di ricatto e di argine nei confronti della Russia e dei propri prodotti, insomma. Capito. Tornando invece all'appuntamento appunto da Gaza a Berlino, abbiamo già detto qualcosa di chi è Majed Abu Salama, ma ti chiederei se puoi raccontarci qualcosina di più anche appunto di chi si tratta. Majed è un giovane, perché ha poco più di 30 anni, però per i palestinesi quella è un'età in cui hanno già visto di tutto. Lui, poi, essendo di Jabalia, che è il campo profughi, diciamo, martire per eccellenza, da dove partì anche l'intifada nel 2002, per cui è sempre stato nell'occhio del ciclone anche da parte di Israele per le pesanti ritorsioni che vi hanno realizzato. Maset stesso nel 2014 fu ferito gravemente a una gamba durante l'invasione israeliana della striscia di Gaza, per cui ha vissuto sulla sua pelle tutte queste cose. Non sono teorie, non sono cose lontane. Il problema di tutti i palestinesi di Gaza è che quando escono poi non riescono più a rientrare, perché è molto fortunoso ogni volta che riescono ad uscire, e quindi è già un esiliato due volte, perché è un profugo di origine e diventa seconda patria, adesso è la Germania, perché è dovuto rifugiare in Europa. Questa è un po' la sua storia, che ci racconterà lui direttamente anche domani. Lui è un giornalista, si è dato molto da fare nel settore giovanile, creò una coalizione di associazioni giovanili in Palestina che si chiama Sharek, è molto attivo, è un laico, non è assolutamente un barbuto religioso, è una persona molto vivace, molto attento, e ha molti rapporti anche con la sinistra israeliana, con la quale appunto collabora. Perfetto, direi che possiamo concludere qua. Aggiungiamo solo anche il fatto che a introdurre l'incontro sarà Angelo Stefanini, ex docente dell'Università di Bologna, è stato anche responsabile della sanità a livello internazionale per l'OMS in territori palestinesi e anche in Siria, è una persona molto colta, molto dentro le cose, attualmente è anche consulente e attivista per una ONG palestinese, per un'associazione palestinese che lavora a Gaza, negli ospedali di Gaza, sempre in maniera volontaria, quindi molto attento, una persona veramente da ascoltare con attenzione.